Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di testo, possiamo dire, per queste nostre catechesi. È intitolato Il falsario, la lotta quotidiana contro Satana. E siamo arrivati, cari amici, al capitolo quinto. Stiamo alla luce della Bibbia, cercando di capire qual è la natura del diavolo. Non è il caso, cari amici, che sottolinei ancora una volta l'importanza di queste catechesi, perché a questo riguardo, cioè sull'esistenza del diavolo, ma soprattutto sulla sua natura e sulla sua attività, sui suoi obiettivi, sulla sua, anche possiamo dire, forza, ma anche sulla sua sconfitta da parte di Cristo, dobbiamo dire che a questo riguardo le catechesi sono un po' carenti. Nonostante che l'insegnamento biblico al riguardo sia ricchissimo. Non per niente la Bibbia, sia il Vecchio sia il Nuovo Testamento, incominciano proprio con la tentazione di Satana. Satana tenta Adamo, Satana tenta Cristo, e non a caso l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, la Bibbia si chiude con la sconfitta definitiva di Satana. Cioè, nonostante, cari amici, la ricchezza della rivelazione al riguardo, e nonostante la precisione degli insegnamenti della Chiesa al riguardo, basta leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica, io ho raccolto qui nel mio libro Il Falsario la maggioranza dei testi biblici e anche quasi tutti i passaggi del Catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè, nonostante questa ricchezza dottrinale, dobbiamo dire che la catechesi al riguardo è un po' babbettante. Parlo della catechesi che facciamo noi sacerdoti o i catechisti, è un po' balbettante, e dobbiamo dire che c'è anche, per quanto riguarda Satana, una scarsa consapevolezza di quello che è la rivelazione divina, cioè si è scarsamente consapevoli della sua esistenza, della sua presenza, della sua attività pericolosissima, soprattutto nel campo della tentazione, ma anche si è scarsamente a conoscenza anche dei mezzi con i quali noi possiamo vincere il maligno, e purtroppo quindi siamo costretti a muoverci in un ambito dove l'ignoranza è grande, purtroppo. L'ignoranza è grande, invece, questo non è una tematica marginale. Se è vero che Cristo è venuto per sconfiggere il maligno, non è una tematica marginale, ma siamo nel cuore stesso della rivelazione. E quindi mi pare assolutamente necessario procedere con molta determinazione, anche perché alla fin fine una conoscenza esatta della rivelazione divina su questo argomento, a mio parere, alla fin fine fuga le paure, fuga le angosce, perché sì, è vero, c'è il nemico, sappiamo chi è, ma sappiamo anche quali sono i mezzi per vincerlo, conosciamo le sue trappole, conosciamo le sue astuzie, conosciamo anche le armi che Dio ci ha dato per sconfiggerlo. Quindi alla fin fine, al termine di queste catechesi, vedrete che avrete più capacità di discernimento, perché Dio ci dà i mezzi per avere più discernimento, ma soprattutto avremo anche più fiducia in noi stessi, perché la tesi di fondo è che Satana nulla può se noi non vogliamo. Nel capitolo quinto abbiamo visto che Satana, oltre che essere l'avversario di Dio, è il nemico dell'uomo. E questo gli uomini molte volte non lo capiscono, perché lui si presenta sotto le mentite vesti del falso benefattore. In realtà Gesù l'ha chiamato omicida fin dal principio, cioè il suo scopo è quello di lo scopo di Satana è quello di uccidere l'uomo. dare l'uomo con la morte, che è la morte eterna, che è la morte dell'uomo quando è separato da Dio, quando ha perso la vita divina, quindi ha perso la verità, la luce, la santità, la grazia. E abbiamo visto anche il terzo paragrafo di questo capitolo quinto, che Satana seduce per distruggere. Abbiamo visto che oggi esso lavora soprattutto a tre livelli: distrugge le persone singole, specialmente i giovani, distrugge oggi e opera per distruggere le famiglie, e poi è tutto un secolo che Satana opera per distruggere la società attraverso le guerre. Questa è la sua attività instancabile: distrugge le persone, specialmente i giovani, li seduce, li distrugge, e distrugge oggi le famiglie, che sono la base della società, ma anche la cellula vivente della Chiesa, la famiglia, ma soprattutto opera per distruggere il mondo e portarlo alla soluzione finale, alla fine delle fini, cioè alla guerra nucleare, alla distruzione totale. Questo è quanto è la grande opera di Satana in questo secolo, cari amici, che ha già visto due guerre mondiali, e abbiamo sfiorato in questo fine secolo più di una volta la terza guerra mondiale, quella nucleare, che avrebbe veramente portato l'umanità a un punto di non ritorno. E vediamo, cari amici, qual è quell'ultimo paragrafo, che certamente non piacerà a molti, ma però è molto concreto, è molto sperimentalmente verificabile nella realtà. E cioè Satana seduce per distruggere, ma non ci vuol distruggere, attenzione, Satana ci distrugge non perché noi scompariamo, ma semplicemente per farci immagine di quello che lui è, cioè immagine della sua cattiveria, della sua falsità, del suo odio. L'obiettivo finale è quello di darci il suo spirito, di entrare in noi, di farci simili a lui. E questo noi lo vediamo concretamente in questo mondo, cari amici, dove ci sono gli uomini immagine di Dio e ci sono gli uomini immagine del maligno. E ci sono uomini che sono un po' immagine dell'uno, un po' immagine dell'altro. Quando è che gli uomini sono immagine di Dio, cari amici? Gli uomini sono immagine di Dio quando sono buoni. E quando è che gli uomini sono immagine del maligno? Quando sono cattivi. Cattivi nel senso della cattiveria, della perversione. Quindi odiano, quindi sono egoisti, quindi sono duri, sono rapaci, sono senza pietà, sono omicidi, sono immagini del maligno. Quindi mentre Dio opera per trasformarci a sua immagine, a immagine della sua bontà, della sua bellezza, della sua santità, Satana opera per trasformare gli uomini a immagine della sua perversione. E quindi non è che Satana sia invisibile. È invisibile in se stesso, ma è visibilissimo nelle opere che lui compie. Sono le opere dell'odio, le opere dell'ingiustizia, le opere della cattiveria, le opere della menzogna, le opere della vendetta, le opere della superbia, eccetera. Sono le opere, e naturalmente queste opere nascono dal cuore dell'uomo, e lui opera per dare il suo spirito agli uomini. Il suo spirito, lo spirito di menzogna, lo spirito di cattiveria, lo spirito, cari amici, il veleno che ci inietta. D'altra parte Dio invece ci dà il suo spirito, lo spirito di bontà, di luce, di verità, di amore, di generosità, di tenerezza, di disponibilità, di sincerità, di amicizia. E voi vedete che ci sono uomini di due specie, ci sono i buoni e i cattivi, giusti e gli empi, non è una invenzione mia. Questo è un motivo ricorrente nella scrittura, ma è ovunque ricorrente. Ci sono gli uomini che sono immagine di Dio e ci sono gli uomini che sono immagine del maligno. Poi c'è naturalmente, dobbiamo anche dire che la maggioranza degli uomini sono un po' come i campi dove cresce il buon grano, ma anche tanta zizzania, quello lo si sa, però diciamo che laddove cresce il buon grano, anche se poi ci sono le erbacce, c'è sempre una grande speranza. Ma quando poi Satana riesce a trasformare la nostra anima in una terra desolata, arida e senza acqua, dove appunto trovano riparo i serpenti e gli scorpioni, quando l'anima è ridotta a nodo di vipere, no? A groviglio di vipere, quando il cuore umano il cuore umano è diventato un nido di vipere, è chiaro che non c'è più nessuna immagine di Dio. Poi quando si arriva fino al punto di soffocare la coscienza, allora siamo perfettamente immagine sua. Quindi c'è una via della perversione che ci porta a diventare sempre più immagine di Satana, e c'è una via della conversione che ci porta sempre più a diventare immagine di Dio. C'è una via del bene che trasforma noi in persone buone, in essere di luce, e c'è una via del male che, se la percorriamo fino in fondo, trasforma sempre più noi in demoni incarnati, come insegna Santa Caterina da Siena. Questa è una sua espressione. D'altra parte, non dice Gesù agli apostoli: uno di voi è un demonio. Cosa vuol dire questa espressione? Uno di voi è un demonio. Sa, detta da Gesù, questa espressione fa paura. E perché? Questo significa che Satana opera in noi e prende possesso di noi per trasformarci in lui. Ecco perché Gesù arriva al punto di dire: uno di voi, l'ha detto agli apostoli, uno di voi apostoli è un demonio. E cioè Satana dal di dentro compie le sue opere, opere malvagie, e si trasforma in immagine sua. Vediamo allora quest'ultimo capitolo. Siamo a pagina 37 del capitolo quinto, di cui abbiamo fatto il paragrafo. Primo, il falso benefattore. Poi il paragrafo secondo, l'invidia omicida. Poi abbiamo fatto il paragrafo terzo, l'arte per distruggere. Adesso facciamo il quarto paragrafo del capitolo quinto. Siamo a pagina 37, perché il libro Ad immagine di Satana. È un capitolo, questa è una pagina che fa un po' paura, però è sperimentalmente verificabile nella realtà. E Dio non voglia che noi stessi non abbiamo sperimentato dentro di noi, quando ci siamo abbandonati al male con cattiveria, come il maligno metteva le sue radici in noi. È un'esperienza che anche noi potremmo aver fatto, cari amici. Dunque scrivo: Satana seduce l'uomo distruggendo tutto ciò che in lui vi è di più positivo, per imprimere alla fine nella sua anima il marchio della bestia. Apocalisse 13,16, è molto forte questa espressione di Apocalisse 13,16, dove appunto si dice che la bestia, cioè i grandi rappresentanti di Satana qui sulla terra, non sono le due bestie, il potere politico staccato da Dio e il potere religioso ingannatore, no? I falsi profeti, sono le due bestie, la bestia politica che vuol sostituire Dio nel farsi adorare, questa è una bestia. Poi l'altra bestia è la bestia, cioè nel senso dei falsi profeti, le religioni false bugiarde, le chiamerebbe Dante, e ce ne sono, basti pensare alla religione umanitaria del nostro tempo, che vuol divinizzare l'uomo, una religione falsa e bugiarda, anche se poi prendi i nomi i nomi più belli, però in realtà è la religione della, come il catechismo della Chiesa Cattolica la chiama la grande impostura, no? Ebbene, cari amici, la bestia, cioè queste sono le due bestie, il potere religioso dei falsi profeti e il potere politico di chi si vuol sostituire a Dio, è il potere pervertito attraverso il quale opera Satana. Ebbene, Satana, attraverso il potere religioso pervertito, quello di falsi profeti, il potere politico pervertito, quello che si arroga la divinità, cosa fa? Mette il marchio della bestia. Siamo Apocalisse 13,16. Cos'è questo marchio della bestia? Beh, si possono dare tante interpretazioni, ma a me preme in questo momento dare una interpretazione di carattere spirituale. Cioè, come il marchio della bestia vuol dire quel segno, il segno di appartenenza. Il segno di appartenenza. Il segno di appartenenza non è soltanto un segno esteriore, ma è un segno interiore. Come per esempio tu metti una crocetta così, tieni una crocetta al collo. Il fatto di mettere una crocetta al collo non vuol dire niente, cari amici. Perché il fatto di mettere una crocetta al collo deve indicare un'appartenenza interiore. Allora, se c'è questa appartenenza interiore, la crocetta al collo ha un significato, se no ha nessun significato. Allora, se tu porti la crocetta al collo, ma questa crocetta al collo che hai è segno di appartenenza interiore, quella crocetta al collo è un segno per Satana che tu sei di Gesù. Ma non è detto che il segno esteriore, cari amici, in sé abbia un significato. Io ho visto in questi giorni una rivista per uomini, di quella che inseriscono nei giornali, no? Che compro al mattino, dove appunto in una serie di immagini di uomini nudi, quindi pornografiche, l'uomo nudo si esibiva con una corona a rosario al collo. Ecco, lì c'era veramente qualcosa di satanico, una profanazione satanica. Perché lì c'era un segno esteriore come la croce, la corona con la croce, che è religioso, ma veniva usato da un cuore pervertito, cioè di chi ha fatto quelle immagini giusto per pervertire, per gusto della perversione, no? E voi sapete che vanno di moda adesso l'uso della croce su persone che la croce la disprezzano. Quindi non basta il segno esteriore, ci vuole anche il segno interiore, lì in quei casi manca il segno interiore, l'amore per Gesù, l'amore per Maria. Allora, il marchio della bestia, cari amici, cos'è il marchio della bestia? È qualcosa di impresso nell'anima, cioè è la tua incredulità, il tuo rifiuto di Dio, la tua cattiveria, la tua scelta per Satana, quello è il marchio della bestia. Quindi Satana seduce l'uomo, distruggendo tutto ciò che in lui vi è di positivo, per imprimere alla fine della sua anima il marchio della bestia, Apocalisse 13,16. Di esso parla più riprese l'Apocalisse in contrapposizione al sigillo del Dio vivente, col quale sono segnati i giusti. Vedi Apocalisse 7,2. Quindi vedete, cari amici, come Dio ci plasma imprimendo sulla nostra anima il sigillo del Dio vivente, cioè il sigillo della verità, della luce, della pace, dell'amore, della santità. Satana opera in noi per imprimere il marchio della bestia, cioè il marchio della incredulità, della cattiveria, dell'odio, della menzogna, eccetera. Vediamo allora cosa sono questi due sigilli, quello del marchio della bestia di cui parla Apocalisse 13,16 e il sigillo del Dio vivente che c'è in Apocalisse 7,2. Dunque, il sigillo del Dio vivente che distingue i seguaci dell'agnello non è tanto un segno esteriore quanto la testimonianza di una vita interiore, cioè la vita di fede, di amore e di dedizione. Ogni persona in grazia di Dio è abitata dalla Santissima Trinità, che ha fatto di essa il tempio della sua gloria. L'anima nella quale Dio ha preso dimora nell'uomo è ricolma della sua luce, della sua pace, della sua gioia e del suo amore. La divina presenza brilla sul volto, nei gesti, nelle parole e nelle azioni delle persone buone. Pur nella fragilità della condizione umana, qui sulla terra, tu vedi brillare in queste persone l'immagine viva di Dio. Quindi vedete, cari amici, cos'è questo sigillo del Dio vivente e la grazia santificante. O se vogliamo, è la presenza della Santissima Trinità in noi, dalla quale presenza della Santissima Trinità in noi emana la grazia santificante, che ci permea con la sua luce, con la sua pace, con la sua gioia e col suo amore. Questo è il sigillo del Dio vivente. È la grazia santificante che permea la nostra anima e poi molte volte si riflette anche sul corpo, perché le persone buone hanno una faccia buona. E non voglio adesso naturalmente esagerare, ma le persone buone hanno una faccia buona, gli occhi buoni, gli occhi sono specchio dell'anima, nel sorriso di Dio, hanno il volto buono. E quindi, in qualche modo, questo sigillo del Dio vivente che parte dall'anima, irradia tutta l'anima delle virtù e poi fonde la sua luce e la sua bontà anche sul corpo delle persone, no? Quindi vedete, cari amici, che Dio prolunga in qualche modo, come dicevano i padri della Chiesa, l'incarnazione si prolunga in ogni uomo, quindi come in Gesù la natura divina del Verbo si è unita alla natura umana, così, come dice il Concilio Ecumenico Vaticano II, con l'incarnazione in qualche modo Dio si unisce a ogni uomo E questo avviene mediante la grazia santificante che viene data attraverso il battesimo e poi gli altri sacramenti, in particolare il sacramento della confessione, che ridà la grazia santificante all'uomo caduto in peccato mortale. Poi gli altri sacramenti, come l'Eucaristia, aumentano questa grazia santificante, cioè aumentano la nostra appartenenza a Dio, rendono ancora più splendente il sigillo del Dio vivente in noi. Quindi, da una parte, Dio divinizza gli uomini, imprime il sigillo di appartenenza a Lui. Attenti, cari amici, adesso, il rovescio della medaglia, purtroppo esiste anche il rovescio della medaglia. Allo stesso modo, anche se con significato totalmente opposto, il marchio della bestia non è soltanto un attestato di appartenenza al maligno, che ci ha fatto suoi schiavi col peccato, ma è soprattutto un indice di presenza interiore del tenebroso, il quale ha preso possesso di quel cuore che Dio aveva creato per sé e ne ha fatto il suo orribile covo. Quando la corruzione dell'anima ha toccato il fondo, ecco che Satana vi entra trionfatore come ha fatto con Giuda. Vedi Giovanni 13,27. Satana entrò in Giuda. Allora egli, Satana, completa l'opera plasmandoci a sua immagine. Cioè, come c'è una progressiva trasformazione di noi in Dio, così c'è una progressiva trasformazione di noi ad immagine del demonio. Il demonio comincia, cari amici, a disturbare, a offuscare la presenza divina in noi col peccato veniale, riesce a eliminare la grazia santificante in noi col peccato mortale, e sapete che perché ci sia un peccato mortale ci vuole non solo la materia grave, ma anche la piena avvertenza e deliberato consenso. Poi naturalmente il demonio tende a offuscare la voce dalla coscienza, tende a farci moltiplicare i peccati, moltiplicando i peccati noi diventiamo sempre più schiavi delle cattive abitudini e dei vizi, i vizi prendono possesso in noi, la voce della coscienza viene progressivamente soffocata, si arriva addirittura a giustificare il male, si arriva addirittura a compiacerci del male, si arriva a volere il male, si arriva al soffocamento totale della coscienza, e a questo punto Satana, la trionfatore, entra in noi perché ormai noi siamo diventati il seggio della sua gloria. E allora a quel punto lui completa l'immagine, completa l'opera plasmandoci a sua immagine e facendosi strumento di perdizione nei confronti degli altri. Quindi, vedete, amici, come è tutto molto coerente. Cioè, c'è il sigillo del Dio vivente, c'è il marchio della bestia, non si scappa da lì. L'uomo è un essere che è stato creato per essere abitato da Dio. Ma il demonio riesce a espellere Dio e entrare in lui col nostro consenso. Non pensare, caro amico, che io stia calcando le tinte. Le possessioni del cuore, ormai indurito dal male, sono infinitamente più diffuse delle possessioni del corpo. Guardate che se il Vangelo ci dice, ci testimonia ampiamente delle possessioni del corpo da parte dei demoni che disturbano persone che molte volte non sono necessariamente cattive, ma sono semplicemente delle vittime. E sappiamo quanti comandi ha dato Gesù ai demoni per cacciarli, veri e propri esorcismi che Cristo ha compiuto con la potenza che gli è propria di figlio di Dio, no? Ma il Vangelo non conosce soltanto le possessioni del corpo, il Vangelo conosce anche le possessioni del cuore. La espressione più forte che indica la possessione del cuore si trova proprio sulla bocca di Gesù, quando dice: voi avete per padre il demonio. Quando dice a Pietro: via da me Satana, in quel momento Pietro faceva l'ufficio di Satana, cioè tentava Gesù. Appunto quando Giovanni dice che Satana entrò in Giuda, vedete? Che i Vangeli conoscono non soltanto le possessioni del corpo, ma anche le possessioni del cuore, e le possessioni del cuore, cari amici, sono infinitamente più diffuse delle possessioni del corpo. perché sono molto più gli uomini cattivi che esistono di quanto non esistono gli indemoniati. Santa Caterina da Siena non esitava a chiamare i peccatori impenitenti col nome di demoni incarnati, dei quali Satana si serve per la sua nefasta opera nel mondo. Quando, cari amici, una persona odia Dio e lo bestemmia, mettendosi volontariamente al servizio del maligno nella sua instancabile attività di disgregazione spirituale e morale della società, non ha forse trasformato se stessa da immagine di Dio qual era in immagine del maligno? Satana ricompensa i suoi donando in premio se stesso. Cari amici, come Dio ricompensa i suoi? Donando in premio se stesso, e quindi la sua pace, il suo amore, la sua gioia, il suo perdono, la sua luce. Così Satana ricompensa i suoi donando in premio se stesso, cioè il suo odio verso Dio, il suo disprezzo, la sua menzogna, tutto ciò che c'è di cattivo in lui. Tutto ciò che c'è di cattivo nel mondo viene dal suo cuore, dal cuore del maligno. Ecco perché, per tutti coloro che gli assomigliano, che assomigliano a Satana, e cioè, e qui cito Apocalisse 21,8, perché sono tutti brani, cari amici della scrittura, che noi ci siamo dimenticati, sui quali noi abbiamo messo il silenziatore, ma non è onesto. Cioè mettere il silenziatore su tutta una serie di brani della scrittura non è onesto, perché si mette il silenziatore sulla parola di Dio. Allora cosa vorremmo dimostrare? Che le nostre idee sono più importanti della parola di Dio? Noi dobbiamo essere degli specchi che riflettono tutta la parola di Dio. Ma Gesù stesso ha detto: guai a chi toccherà uno iota o un apice soltanto della parola di Dio. Cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno. Non possiamo noi, cari amici, mettere il silenziatore sulla parola di Dio. Allora, ditemi voi quando mai viene citata nella predicazione questa che è il giudizio finale dell'Apocalisse. Citiamo sempre il giudizio finale di Matteo 25, che è tanto bello, tanto giusto: avevo fame e non mi desse da mangiare. Lo citiamo sempre quel brano lì, però ci dimentichiamo la parola finale: via da me maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Su quello non si fa mai nessun commento. Su quello non si fa mai nessun commento. Come pure non si fa mai nessun commento su questo testo dell'Apocalisse. Ma perché? Perché? Parlare solo di questi testi sarebbe ingiusto, ma dobbiamo parlare anche di questi testi, come Apocalisse 21,8, che dice: i vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Cioè, tutti quelli che gli assomigliano vanno con lui. Chi sono quelli che gli assomigliano? I vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e tutti i mentitori. Per tutti costoro è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, Apocalisse 22,8, dove il diavolo e i suoi saranno tormentati per tutti i secoli dei secoli, Apocalisse 20,19. Quindi vedete, cari amici, che c'è già in questa vita, è inutile che ce lo nascondiamo perché è un'evidenza dalla scrittura, c'è già in questa vita una progressiva divinizzazione dell'uomo, che Dio assimila a sé con l'opera della grazia santificante, e l'uomo diventa sincero, buono, generoso, paziente, fiducioso, pieno di fede, speranza, carità, eccetera, gli uomini buoni, diciamo, e nel medesimo tempo, cari amici, noi stessi naturalmente cooperiamo a quest'opera di divinizzazione, perché Dio, la grazia di Dio coopera con la nostra libertà, ma nel medesimo tempo c'è il processo opposto, la via del male, con il quale noi diventiamo sempre più immagine del maligno. E diventando immagine del maligno andiamo dove lui è, e abbiamo